l'altra Europa. Eccola qua, l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti in diretta con il nostro appuntamento settimanale dedicato all'Europa, delle opportunità, delle possibilità, l'Europa che cambia, l'Europa che cammina. Ve lo ricordo sempre, non nascondiamo i punti critici, anzi li affrontiamo, però cerchiamo di raccontare anche parti, pezzi dell'Europa che funziona. Allora, un programma in collaborazione con il network Euronet Plus. Vi ricordo subito le coordinate anche digitali: euronetplus.eu è il portale dove potete trovare tante notizie, tante inchieste, tante reportage in tante lingue diverse per raccontare la stessa Europa. Oppure chiocciola Euronet Plus R24 o il mio account personale chiocciola Federico Taddia per trovarci su Twitter e su Facebook, le nostre bacheche che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link che andremo a toccare. Con noi oggi Dacia Maraini, con lei parleremo di Europa e andremo in giro per raccontarvi tante storie, anche un bel viaggio fotografico, 28 città, 28 stati, 28 nazioni raccontate attraverso degli scatti molto particolari. Però partiamo dal cuore dell'Europa, partiamo da Strasburgo. Dei diritti LGBT è infatti parte integrante della lotta contro ogni tipo di discriminazione e della tutela dei gruppi vulnerabili che sono al centro della politica estera dell'Unione Europea. Si chiude così un piccolo scritto che il commissario Federica Mogherini ha inviato all'europarlamentare Daniele Viotti. Perché? Perché è stata una settimana importante. Il Parlamento Europeo, benché insomma diviso, ha comunque aperto al riconoscimento della genitorialità LGBT, e di questo ne parliamo proprio con l'europarlamentare Daniele Viotti, che da sempre si batte per difendere tutti i diritti. Buongiorno Viotti, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a tutti voi. Allora, un evento importante, insomma significativo, un passo che significa che qualcosa sta finalmente cambiando. Sì, un evento importante per, anche nei numeri, perché in realtà abbiamo approvato un rapporto sulla parità di genere tra uomo e donna, ed è importante perché il rapporto non è uno dei soliti rapporti che facciamo rivolti all'estero, rivolti quindi ai paesi fuori dall'Unione Europea, ma è un rapporto sulla parità di genere all'interno dei 28 paesi, e quindi c'era più attenzione, diciamo così. E in questo rapporto per la prima volta si parla di famiglie LGBT, quindi storicamente, ed è stato approvato a larghissima maggioranza. Questa è una sorpresa, devo dire che siamo rimasti tutti molto sorpresi perché i numeri erano veramente alti. Certo, Viotti, c'è stata una sorta di trasversalità sia nei diversi partiti politici, diversi schieramenti, e anche nei 28 stati membri, o ci sono state differenze sostanziali? No, adesso io non sono un esperto di questo tipo di numeri, sì. non mi metto lì come fanno alcuni colleghi a guardare voto per voto, eccetera. Però posso dire sicuramente che la trasversalità è stata soprattutto nel Partito Popolare, sì. Che ha fatto sì che, vuole dire, storicamente i partiti della sinistra insomma sono più aperti, progressisti e attenti a questi temi, il Partito Popolare è tendenzialmente più conservatore, mentre invece parte del Partito Popolare Europeo ha votato a favore del rapporto e degli emendamenti che c'erano nel rapporto, e quindi questo è stato significativo. Certo, un testo non legislativo, non vincolante, ma che ha una forte valenza politica. Cosa accadrà ora? Non è legislativo e quindi non ha nessun ambito di applicazione. Diciamo che deve servire da stimolo ai paesi, appunto per affrontare le discriminazioni che ancora sono presenti nei singoli stati e soprattutto legiferare in tema di famiglie. Uno di questi è, guarda caso, l'Italia. Io infatti in uno dei commenti che ho scritto ho chiesto a Matteo Renzi di considerare questo voto e di mettere ancora più fretta, furia, come dice lui, all'approvazione del DDL Cirinna, che ha cominciato il superforzo in questi giorni. Ce n'è un estremo bisogno. Certo. Non un punto d'arrivo, quindi, ma un punto di partenza. Per quanto riguarda l'Italia, il DDL Cirinna è sicuramente un punto di partenza. Non possiamo considerarlo un punto d'arrivo. Un buon punto di partenza, ma non è l'arrivo. Grazie davvero, danieleviotti.eu il sito. Ho dato un'occhiata alla home, c'è anche una bellissima sezione dedicata ai bandi europei e alle opportunità che l'Europa mette a disposizione dei giovani e non solo, quindi vi consiglio comunque di visitarlo. Grazie, buon lavoro, buona giornata. Buona giornata a voi. Un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Euro post-it. Programma di formazione continua Pestalozzi. Il Consiglio d'Europa offre una grande opportunità nel campo dell'istruzione e della formazione a tutti i dirigenti tecnici, scolastici e docenti di ogni ordine e grado con contratto a tempo indeterminato. Grazie al programma Pestalozzi, gli educatori avranno infatti l'opportunità di partecipare a seminari, scuole estive e moduli di formazione europei. I seminari europei organizzati ogni anno vertono su materie come educazione alla cittadinanza democratica ai diritti dell'uomo, insegnamento della memoria ed educazione alla prevenzione dei crimini contro l'umanità, plurilinguismo, diversità, cittadinanza, dialogo interculturale e prevenzione dei conflitti. Si tratta di un'occasione imperdibile perché questi seminari offrono la possibilità di osservare i lavori del Consiglio d'Europa in tema di educazione e di scambiare informazioni, idee e materiale pedagogico con colleghi di altri paesi. Tutte le informazioni sul sito coe.int/Pestalozzi. Le candidature andranno inviate entro il 31 luglio 2015. L'altra Europa. Life isn't easy when two are divided and one has decided to bring down the curtain, and one thing for certain, there's nothing to keep them together. Does it happen that two can be tender and one be the lender of love and emotion that covered the ocean of sadness that kept them together? Ancora in diretta con l'altra Europa. Abbiamo il piacere adesso di raccontarvi un libro importante che verrà presentato lunedì 15 giugno alle ore 18:30 presso la Casa Museo Alberto Moravia, Lungo Tevere della Vittoria 1 a Roma. Il volume si intitola Alberto Moravia tra Italia ed Europa di Franco Cesati editore, e di questo libro ne parliamo con chi interverrà proprio all'incontro per presentare questo bel lavoro. Ne parliamo, abbiamo il piacere di parlarne con Dacia Maraini, scrittrice poetessa e presidente dell'associazione Fondo Alberto Moravia. Buongiorno Maraini, benvenuta all'altra Europa. Buongiorno a voi. Cosa lega Moravia all'Europa? Ma il fatto che lui ha scritto un diario europeo, che è un libro bellissimo, è stato al Parlamento europeo per un certo periodo, ha voluto uscire dalla sua sua pratica letteraria per diventare anche, per fare della politica, soltanto però finalizzata a combattere contro la proliferazione delle bombe atomiche. Certo, e appunto lo scorso anno, a 30 anni dalle elezioni dello scrittore al Parlamento europeo, si è tenuto un importante convegno a Perugia, e questo libro raccoglie un po' gli atti di quello che è successo a Perugia, giusto? Sono molti scrittori, tra cui, non so, per esempio René Descati, che è uno scrittore francese che ha parlato dei rapporti di Moravia con la Francia, Roberto Bazzanti, Raffaele Manica, che ha parlato dell'Europa, delle radici europee, Annalisa Volponi, Enrico Terrinoni, Massimiliano Tortora, e poi Simone Casini, che poi è quello che ha curato il libro, che è uno studioso di Alberto. E credo che la cosa più importante che viene fuori è che in realtà noi siamo profondamente europei tutti quanti, sì, per un fatto culturale, mm-hmm, perché la nostra cultura è impregnata di europeismo, cioè di scrittori, di pittori, di poeti che vengono dai paesi europei. Quello che forse è stato un errore di puntare tutto sul fatto economico e di non continuare questo rapporto con la cultura, con le radici culturali dell'Europa, e di pensare di poter risolvere tutto con l'economia. Invece l'economia senza la cultura non funziona. Si perde. Ma e Moravia cosa raccontava della sua esperienza al Parlamento europeo? Leggendo i suoi testi, i suoi atti, ci sono assonanze con quello che si legge oggi? Ma lui insisteva molto su una cosa che secondo me è anche molto bella. Lui diceva che bisogna creare culturalmente il tabù della guerra. Mm-hmm. Come si è creato, gli esseri umani hanno creato il tabù dell'incesto, perché questa è molto bella questa combinazione, gli animali, gli esseri umani come gli animali non avevano il tabù dell'incesto. Allora la cultura nasce, come dice anche Malinowski, proprio nel momento in cui gli esseri umani creano il tabù dell'incesto, no? E questo è il principio della cultura. Allora lui dice: così come abbiamo fatto, abbiamo creato questo artificio importantissimo, si può creare un altro artificio, perché la guerra è un po' innata, come appunto fra gli animali, però si può creare l'artificio del tabù della guerra e stabilire dei rapporti, dei legami che non siano basati sulla guerra. Questo si può fare, è un fatto culturale. Certo. Marini, a lei l'Europa piace? Si riconosce nell'Europa di oggi? È europeista? Io dal punto di vista culturale sì, ma penso che siamo tutti, non possiamo non dirci europei, come Croce diceva, non possiamo non dirci cristiani, e siamo figli di questa cultura, insomma, profondamente europea. Poi naturalmente, poi se si scende alla politica più immediata, più quotidiana, si cascano le braccia, perché vediamo che sono tutti egoismi, perché ognuno si chiude adesso di fronte per esempio all'immigrazione, non c'è una politica comune, non ci sono delle scelte comuni, ragionevoli, sensate, e lì invece c'è un po' di fallimento. Mm-hmm. E per questo dico, siccome invece quello che ha funzionato è proprio per esempio, non so, l'illuminismo, che ha veramente funzionato, perché ha creato una consapevolezza dei diritti umani che sono alla base delle nostre culture, e beh, bisogna puntare sulla cultura. Non credo che appunto andando avanti a stabilire delle regole finanziarie si possa rimettere in piedi l'Europa. L'Europa si può rimettere in piedi e far andare avanti e diventare un centro importantissimo, fra l'altro che diventi un punto di equilibrio fra le grandissime potenze, e questo lo può fare solo sulla cultura. Grazie davvero Maraini, ricordiamo Fondo Alberto Moravia per tutte le informazioni. Lunedì 15 giugno ore 18:30, presentazione del volume Alberto Moravia tra Italia ed Europa. Buon sabato, a presto. A voi, arrivederci. Europost-it. Tirocini Euradio Nantes. Ti piacerebbe fare un'esperienza di lavoro internazionale in un ambiente giovane, creativo, ma anche istituzionale di prestigio? Euradio Nantes, emittente radiofonica supportata dalla Commissione Europea con sede a Nantes, offre l'occasione che stai cercando, perché è alla ricerca di tirocinanti. La selezione è aperta a tutti i cittadini europei che abbiano un'ottima conoscenza della lingua francese e abbiano compiuto studi in ambito giornalistico, delle scienze politiche o in materie europee. Il tirocinio durerà 6 mesi e prevederà un rimborso spese. Tutte le informazioni sul sito euradionantes.eu. We are currently drafting a joint manifesto with all of CSR Europe's national partner organizations. We look forward to launching the manifesto at the occasion of the Sodalitas International Conference in Milan on the 19th of June of this year. At this conference, we hope to bring together all representatives from the CSR organizations as well as their member companies. Sono le parole di Stefan Kretz, si parla del manifesto di Milano, la strategia europea 2020 per realizzare nel continente una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva. Mancano solo 5 anni, oppure mancano ancora 5 anni, quindi il tempo è poco, ma il tempo può essere anche tanto. E proprio per mettere il focus su questi 5 anni è stata organizzata a Milano una conferenza internazionale dedicata alla sostenibilità, si chiama Last Call to Europe 2020, promossa dalla organizzata dalla Fondazione Sodalitas insieme a CSR Europe il 19 giugno all'interno di Expo 2015. Di tutto questo ne parliamo con Ugo Castellano, consigliere di indirizzo della Fondazione Sodalitas. Buongiorno Castellano. Buongiorno, mi dica. Tutto bene? Salve. Bene, grazie. No, bene. Siamo alle ultime battute, ormai tra una settimana questo progetto sarà già messo a dormire e cominceranno altre iniziative. Quindi siamo alle ultime battute. Ma lo dice con una certa soddisfazione, nel senso non ne può con più. No. Beh, dopo 18 mesi passati a costruire, a mettere insieme relatori di altissimo livello, a livello europeo, a livello mondiale, a raccogliere testimonianze da parte delle imprese più avanzate sul tema della responsabilità sociale e della sostenibilità di impresa, beh, a questo punto vogliamo che tutto questo abbia un pubblico davanti al quale mostrarsi, quindi l'aspettativa è che arrivi presto il prossimo venerdì 19 in modo da poter far vedere tutto il lavoro che è stato fatto insieme. Castellano, ma 5 anni sono ancora pochi o sono ancora tanti? Allora, 5 anni possono essere, come ha detto lei, possono essere tanti ma possono essere pochi. Diciamo che dal nostro punto di vista avere un punto di riferimento così preciso e tutto sommato non di tipo 2040, 2050, 2070 come in altre occasioni viene proposto, rende l'impegno ancora più concreto. Le cose che le imprese si impegnano a fare non possono essere cose futuribili, ma devono essere cose concrete che possono incidere in maniera significativa nei prossimi anni sulla qualità della vita, sul benessere e sull'occupabilità dei giovani. Uh-huh. 41 organizzazioni, oltre 10.000 imprese europee di fatto hanno partecipato alla stesura di questo manifesto di Milano. Tanta teoria o ci sono proprio indirizzi, no, linee pratiche? Assolutamente di quello che... pochissima teoria. Ci sono 3 grandi obiettivi. Uno ha a che fare con l'occupabilità, creando le premesse perché le imprese diventino un fattore importante per contribuire a far entrare nel mondo del lavoro ancora più giovani. C'è un dato assolutamente sbalorditivo: nei prossimi anni mancheranno in Europa 900.000 persone con competenze nell'area digitale, e se i giovani non vengono formati a queste nuove competenze, questo lavoro andrà a qualcun altro e non ai giovani italiani o europei o francesi o inglesi. Secondo obiettivo molto concreto è migliorare la qualità della vita nelle città, nei territori, nei comuni, nelle regioni, e in questo utilizzando queste nuove tecnologie, sharing economy, sì, circular economy, che possono rappresentare una risposta concreta, soprattutto in un ambito territoriale preciso. Quindi non è un progetto, diciamo così, in tutto il mondo, è un progetto che cerca di aggregare le buone forze all'interno dei territori e dove le cose possono avvenire in maniera più concreta e in maniera più determinata. E da ultimo, perché non ce lo possiamo dimenticare, è il tema del rispetto dei diritti umani e della trasparenza. Sempre di più le imprese stanno rendendosi conto che per avere un ruolo importante, per contribuire alla crescita di un'economia sempre più inclusiva, sempre più sostenibile, devono loro stesse avere come missione, come faro, una maggiore trasparenza e un maggior rispetto ai diritti umani. Il trauma che l'Europa sta vivendo col tema dell'immigrazione sicuramente ha a che fare con una preoccupazione di questo genere. Assolutamente. Sodalitas.it è il sito ufficiale per conoscere tutto ciò che accadrà il 19 giugno all'interno di Expo 2015. Grazie Castellano, buon lavoro. Di nuovo, anche a voi. Adesso un Europost-it, la pubblicità, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Europost-it. Residenze per artisti a Barcellona. Attenzione, scrittori, pittori, videomaker e artisti. Vi piacerebbe sperimentare la vostra creatività fuori dai confini nazionali? La Blue Project Foundation, un'organizzazione senza scopo di lucro con sede a Barcellona, offre residenze per artisti di tutte le età e provenienze. I partecipanti devono essere in grado di sviluppare il proprio progetto nel corso di un mese di residenza. Ai tre vincitori sarà assegnata una somma totale di 12.000 euro, utilizzati per coprire i costi del progetto e una mostra nel 2016. Per candidarvi, visitate il sito blueprojectfoundation.org e cercate la Call for Artists 2016 nella sezione Residencies. Avete tempo fino al 1 agosto. L'altra Europa. So go and be kind. You have love on the side. All to family, food in their bellies, car for them to drive. People sleeping on the concrete, still smile behind the signs. Go now, be happy and be free. You have so much time. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, questa è sempre Radio 24, @Federico Taddia, gli account per trovarmi anche su Facebook e su Twitter, sulle nostre bacheche virtuali con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Ora parliamo di sicurezza alimentare, il cibo, l'Expo, insomma il grande e sano tormentone che ci accompagna in queste settimane, tanta Europa dentro all'Expo, ma anche il tema del cibo che ritorna a più livelli. Lo sapete, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare si trova a Parma, è un'organizzazione fondamentale proprio perché da lì anche vengono date le dritte, le coordinate su quello che è tutto il regolamento legato al cibo, legato a quello che finisce nei nostri piatti. Beh, tra i 20 esperti europei di nutrizione ci sono anche due italiani ed è appena stato nominato membro dell'Authority per la sicurezza il professor Marco Vinceti, per tutto il prossimo triennio, dal 1 luglio 2015, appunto, sarà nell'organico dell'Agenzia Europea, e abbiamo proprio il piacere di avere qua con noi il professor Vinceti, epidemiologo dell'Unimore, nominato tra i 20 esperti di nutrizione dell'EFSA. Buongiorno Vinceti, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, grazie per l'invito. L'Unimore, ricordiamo che è l'Università di Modena e Reggio Emilia, questa sigla. Corretto. Allora Vinceti, cosa significa? Insomma, è un impegno bello ma anche gravoso. Nei prossimi tre anni sarà chiamato a verificare quello che finisce nei nostri piatti, di fatto. Credo che lei abbia perfettamente ragione. Diciamo che dopo la soddisfazione e la curiosità per questa nomina, pian piano sta prendendo, come posso dire, mi sto rendendo conto che in realtà mi aspetta qualcosa di un po' più impegnativo di quanto pensassi in un primo tempo. È certamente importante, confido di poter dare il mio contributo, però non sarà una passeggiata ed è giusto che non sia così, perché come lei diceva le responsabilità di questa agenzia sono molto importanti e non sono ovviamente relative solo all'Expo, ma toccano in generale buona parte della nostra vita quotidiana. Ormai tutto passa, o buona parte di ciò che noi sperimentiamo in termini anche ambientali, passa per la nostra tavola, per la dieta. Quindi al di là dell'alimentazione diciamo che saremo chiamati, credo, a valutare molti aspetti, anche quelli un pochino meno frequentemente associati alla dieta. In altre parole, l'ambito dell'agenzia è specifico sulla dieta, ma di fatto comprende aspetti e tematiche tradizionalmente meno associate a questa dimensione. Certo, è un team ovviamente multidisciplinare, perché sono tante le competenze che entrano in gioco quando si parla di sicurezza alimentare. Lei in particolare quale contributo porterà? Qual è il suo ambito specifico? Il mio contributo, io sono un medico igienista, è cresciuto e formato nella dimensione epidemiologica, quindi quello che io porterò è, secondo anche una delle declaratorie, delle discipline richieste per far parte di questo panel, è quella dell'epidemiologia nutrizionale, dell'epidemiologia in senso lato e specificatamente nutrizionale. Ho dato un'occhiata ai curriculum di questi 20, in parte nuovi e in parte confermati esperti che fanno parte del board. Alcuni di loro sono biochimici o nutrizionisti, altri tossicologi, altri esperti di allergie o di alimentazione pediatrica, e tre o quattro di questi 20 professionisti fanno parte della comunità epidemiologica. E nello specifico la cosa in qualche maniera curiosa, mi permetto di dire, è che i due italiani, il collega Siani del CNR, che non conosco ma che, di cui ho letto varie pubblicazioni, e sottoscritto, appartengono appunto specificamente direttamente alla comunità dell'epidemiologia, a questa dimensione scientifica di cui credo oggi si senta più l'esigenza del passato, quindi non credo sia casuale la scelta di due epidemiologi da parte per il nostro paese. Certo. Professore, lei se immagino ha già avuto occasione di interfacciarsi con l'Europa nei suoi aspetti o è la prima volta che lavora? Diciamo che per quanto riguarda questa istituzione è assolutamente la prima volta. Con l'Europa faccio parte del, diciamo così, board italiano che siede nella Federazione Europea per lo Studio degli Alimenti in Traccia, cioè degli alimenti che hanno un'importanza nutrizionale, a volte anche tossicologica, ferro, magnesio, selenio, zinco, rame, pertanto per fare alcuni esempi, e che oggi sono certamente uno degli aspetti, dei temi più interessanti dal punto di vista nutrizionale. E in questa sede essenzialmente scientifica e non istituzionale ho avuto modo di incontrare e lavorare con numerosi professionisti, soprattutto tedeschi, inglesi e francesi, che sono, costituiscono la società più rilevante, perlomeno in termini numerici, di produzione scientifica di questa associazione europea. Invece per me è la prima volta dal punto di vista istituzionale e quindi sono anche molto curioso. Paradossalmente sono molto vicino, sarò l'esperto più vicino, perché facendo parte dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia e nello specifico risiedendo a Reggio Emilia, dal punto di vista, come posso dire, logistico, mi capita di essere l'esperto più vicino, ma questo è ovviamente un fatto del tutto aneddotico, perché che uno venga dalla Finlandia o da Reggio Emilia non fa nessuna importanza, insomma, anche se è chiaro che ciascuno di noi risente in qualche maniera della cultura, della formazione di cui, in cui è cresciuto, e quindi la tradizione italiana nello studio epidemiologico e non epidemiologico della nutrizione è una tradizione importante, e quindi in qualche maniera spero di poterla onorare, perché non è appunto una tradizione marginale. Certo, efsa.europa.eu, questo è il sito dell'agenzia. Grazie davvero Vincetti, professore, in bocca al lupo insomma per questa avventura. Abbiamo sentito l'entusiasmo, insomma credo quindi che saranno comunque anni complicati, anni impegnativi, ma anche anni belli. Grazie davvero, buon lavoro. La ringrazio dell'attenzione, anche a lei buona giornata e buon lavoro, grazie. Europost-it. Premio giornalistico Lorenzo Natali. Attenzione giornalisti e aspiranti giornalisti. La Commissione europea ha indetto il premio Lorenzo Natali 2015, che in coincidenza con l'anno europeo per lo sviluppo mira a ricompensare i migliori lavori giornalistici che trattano i temi dello sviluppo e più in particolare l'eliminazione della povertà. Le storie di oggi possono cambiare il nostro domani. Questo è il motto dell'edizione 2015, che consegnerà due premi in denaro del valore di 5.000 euro a un giornalista dilettante e a una giornalista professionista. Possono concorrere al premio Natali gli articoli sulla cooperazione allo sviluppo redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità Europea e pubblicati su quotidiani o periodici di qualunque paese. Per partecipare, visitate il sito ufficiale del premio giornalistico Lorenzo Natali, ec.europa.eu/europeaid/INP. Love you most of all, my favorite vegetable. If you brought a big brown bag of them home, I'd jump up and down and hope you'd toss me a carrot. Ancora cibo, questa è l'Europa delle possibilità e delle opportunità. Ne parliamo con Damiano Petruzzella, project manager dell'incubatore Med Hub, che è l'incubatore mediterraneo per la creazione e il cambiamento di impresa, il primo incubatore in Italia dedicato ai settori agroalimentari e allo sviluppo rurale. Ciao Damiano, benvenuto all'Altra Europa. Ciao a tutti, grazie per l'invito. Allora, insomma, incubatore, acceleratore, tornano questi termini, no? Che di solito sono luoghi accudenti, si prendono per mano giovani e anche non giovani, però persone che hanno idee nuove, si cerca di accompagnarli per realizzare il loro sogno. Di fatto voi chi siete e di cosa vi state occupando? Allora, noi abbiamo la fortuna di essere all'interno di un istituto che si chiama Bari, Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, che è un organismo intergovernativo, l'unico ad avere sede nel sud Italia, appunto a Bari, anche se la sua sede principale è a Parigi, e ci occupiamo soprattutto di ricerca, formazione e cooperazione per i paesi della riva sud del Mediterraneo. Quindi da noi c'è un clima fortemente internazionale, i nostri ospiti, i nostri studenti sono solo studenti che arrivano prevalentemente dai 13 paesi che fanno parte della nostra organizzazione. Quindi non si parla italiano, si parla inglese e francese, le lezioni sono fatte in inglese e francese. In questo spazio abbiamo realizzato invece questo incubatore per accompagnare giovani pugliesi allo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali, di nuove imprese nel settore rurale e agroalimentare. Perfetto. E Damiano, ti chiedo un minuto di pazienza, ci fermiamo per le informazioni del traffico, poi torniamo immediatamente da te. L'altra Europa. Eccoci qua ancora con Damiano Petruzzella, stiamo parlando di questo incubatore Med Hub. E attualmente quante sono le start-up che state seguendo, e ci puoi elencare, Damiano, qualche progetto per certo. Capire appunto. Noi abbiamo al momento abbiamo 30 start-up incubate. Sì. Sono startup, come dicevo, che nascono, sono state selezionate su una richiesta di 120 idee che sono state presentate a una call. Sì. La cosa simpatica è che noi lo stiamo facendo nell'ambito di un progetto di cooperazione territoriale con le isole greche, perché è un progetto europeo che favorisce gli scambi tra la Puglia e le tre regioni confinanti della Grecia. Quindi altrettanti incubatori, altrettante idee si stanno sviluppando nelle altre regioni greche, con le quali abbiamo un continuo flusso di informazioni sia sull'aspetto metodologico che sui risultati che stiamo ottenendo. Tornando a Bari, abbiamo 30 idee che stiamo accompagnando da circa 6 mesi. Sì. È molto bello, sono tutti giovani al di sotto dei 35 anni, precisamente abbiamo una settantina di ragazzi. Mm-hmm. E più o meno ci sono gruppi di 3 o 4 ragazzi per ognuna di queste idee. Le idee spaziano, e la cosa più bella è questa, perché spaziano dall'approccio innovativo a prodotti tradizionali, come potrebbe essere l'olio da olivetti secolari, valorizzando soprattutto le proprietà antiossidanti e nutrizionistiche in generale, o al grano. C'è una startup che sta valorizzando un'antica varietà di grano duro che si chiama Corasan. Sì. Con particolari caratteristiche per il basso contenuto in glutine. Ma c'è anche qualcosa di molto diverso legato alla filiera agroalimentare, proprio a dimostrare che i nostri ragazzi stanno facendo una rivoluzione nel settore verde. Quindi abbiamo da una ecostilista che ha fondato una startup che si chiama Saluti e Bachi, cioè una filiera corta nel vestiario, nel vestire, nel, uh-huh. nel contatto quotidiano con i nostri vestiti. Oppure un'altra iniziativa molto bella è Mamme del Borgo, un piccolo borgo di pescatori a Tricase Porto, nel profondo Salento, dove 4 vicoli di questo antico porto, le mamme, tra virgolette, di questo vicolo, si sono messe insieme e hanno costituito, grazie all'ispirazione e al supporto di alcuni giovani locali, hanno costituito una sorta di ristorante sociale. Quindi sarà possibile mangiare piatti tipici della tradizione locale, però in stretto contatto con queste 30 famiglie che si sono messe insieme e che quindi hanno deciso di lavorare insieme. Una sorta di ristorante diffuso, cheam.org, il sito per conoscere tutto quello che succede all'interno di Med Hub. Damiano, complimenti a te, complimenti ai 70 ragazzi under 35, questa è l'Europa che ci piace raccontare, l'Europa che alla fine insomma incide anche nel territorio. Ciao e buon lavoro. Grazie anche a voi. Salve. Well, I'm changing all my strings, I'm gonna write another traveling song. Insomma, questa è l'Europa che ci piace far vedere. Marco, invece, a te qual è l'Europa che piace far vedere? Buongiorno prima cosa a tutti. Buongiorno a te, ciao. Aspetta che ti presento, dai. Allora, Marco Grazie. Colosi, artista e fotografo, autore di una raccolta fotografica intitolata City Europe. Sono 28 città di questa Europa a 28, raccontata attraverso degli scatti, delle istantanee realizzate in questi 10 anni. C'è una mostra in corso, c'è un libro in corso. Dunque, c'è, ieri ho fatto la presentazione del libro a Grosseto, e quindi il libro praticamente sarebbe un libro catalogo che racchiude tutte, non tante foto in questo libro, che sono 160 pagine, di queste 28 città che fanno di 28 stati un'Europa. Fantastico. E questo libro dovrebbe essere poi l'evento che mi porterà sempre nelle stesse città per fare delle mostre. Ho capito. Marco, allora, Marco Colosi, .tuscani.it è il sito per vedere un po' di foto. Io, allora, abbiamo pochissimo tempo, ma ti do già appuntamento per fare una puntata speciale dove veniamo a viaggiare con te attraverso le tue foto. Benissimo, mi piace molto questa cosa. Raccontami però cosa significa raccontare, narrare l'Europa attraverso qualche scatto. Cosa vai a cogliere? Cosa vai a cercare? Allora, io come sempre, il progetto è partito per altri motivi, perché era andato in Danimarca per fare un lavoro, questo lavoro non è andato in porto e da, come si dice, si chiude una porta, si apre un portone. Ho visto questo paese, Svendborg di Danimarca, che aveva delle similitudini con il nostro territorio toscano, di Siena, i ciotoli, i sanpietrini, e da lì mi è partita l'idea di fare tutte le città europee, oppure i capoluoghi, le città più importanti dell'Europa, e fotografare i centri urbani, l'urbanistica, le persone all'interno del contesto, tutto in bianco e nero, tutto fatto a pellicola, e cercare di trovare fondamentalmente un'unione, cioè trovare di tutte queste culture, queste persone, gente, non voglio dire popoli, perché poi siamo un'unica grande penisola, e trovarli un unico, cioè alla fine in questa Europa tutti partono dai romani, alla fine, perché vai in queste città e trovi sempre l'abbandamento dei romani. E quindi trovare un'unione che poi nel tempo, perché io ho iniziato nel 2005, adesso nel 2010 mi viene un po' osteggiato questo libro, perché non, la gente ha un po' paura, no? a venire a vedere le mostre dell'Europa, dicono ma come, ma questa Europa, ma l'Europa siamo noi i cittadini che formano l'Europa e devono cambiare l'Europa se c'è qualcosa che non va. E niente, quindi sono queste foto che raccontano ognuna degli attimi di queste città, Vilnius, Riga, Tallinn, eccetera eccetera. Insomma, una grande Europa per istantanee, un'Europa in bianco e nero. Com'è la scelta del bianco e nero? Il bianco e nero perché io sono grafico e pittore e fotografo. E il discorso grafico è molto importante, cioè proprio nella grafica della composizione della foto. Il bianco e nero è veramente ideale, perché riesci, praticamente il colore un po' distrae. Okay. Ecco. E quindi, sei andato proprio a cogliere l'essenza di questa Europa. Grazie a Marco Colosi. E Marco, ti do appuntamento a una delle prossime puntate, così andiamo. Posso veramente. Il sito Vai, certo. marcocolosi.com. Perfetto, ok, così è diretto e ci arriviamo subito. Grazie, complimenti. Grazie, ciao, a te, ciao. Grazie, ciao. E grazie a questo grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa, Claudia Schiattone, oggi in assistenza Andrea Roccabella, alla parte tecnica Miriam Lucchetti e Silvia Righini, con me hanno scritto la puntata. Un grazie come sempre a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Radio24.it, da lì potete scaricare il podcast, da lì potete trovare nelle pagine dell'Altra Europa tutti i link relativi agli argomenti che abbiamo toccato, oppure Federico Taddia, mi trovate su Facebook e su Twitter. L'appuntamento con me è sabato prossimo, ma anche, ve lo ricordo, martedì sera dalle 21 alle 24, 3 ore in diretta, è la notte prima degli esami e noi la vivremo con voi. Ancora ciao. Ciao, ancora buon sabato da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.